Perché il 25 luglio e non l'8 settembre? Perché il 25 luglio, come ho detto, è la caduta del fascismo. Vabbè, e fin qui. Ma perché in realtà il 25 luglio ci ricorda che c'è stato un ventennio fascista? E questo è un primo aspetto. Ma il secondo aspetto è che ci ricorda anche che noi non abbiamo mai fatto i conti col fascismo. Questo è un altro punto fondamentale. Cioè, col ventennio i conti non li abbiamo mai fatti. Questo è il punto. Partendo da un presupposto, io mi ricordo di essermi molto vergognato, se devo essere sincero, nel ormai lontano 1993, no? Anno in cui peraltro poi nel 93-94 ho fatto un corso sulla Repubblica Sociale, quando per tutta una serie di circostanze che ovviamente non sto a chiarire, venne a Milano un professore universitario tedesco dell'Università di Freiburg, con, diciamo, una scolaresca. In Germania l'università è strutturata per certi aspetti in maniera diversa rispetto alla nostra, no? E il professor Martin è un grande esperto di fascismo italiano e veniva in Italia con questi suoi studenti, cose che fanno solamente i tedeschi, comunque col pulmino, no? Perché andava a vedere i luoghi della Repubblica Sociale, no? Allora, siccome io quell'anno avevo tra l'altro una studentessa tedesca al corso, che conosceva bene il professor Martin, attraverso di lei mi chiesero di organizzare appunto nemmeno una forma di conferenza, una specie di dibattito in cui loro facevano le domande e io rispondevo. Domande che peraltro non sapevo prima, no? Loro facevano le domande in tedesco, io purtroppo, a sua differenza, il tedesco non lo so, orecchio qualcosa ma non più di tanto, no? E questa gentile studentessa faceva la traduttrice. E io mi ricordo di essere rimasto imbarazzatissimo quando una delle ultime domande che mi fecero fu, voi come avete risolto i conti con il fascismo? E io risposi, in nessun modo. E vidi proprio le facce stupefatte, dicendo, ma voi non avete mai fatto i conti col ventennio? No, noi i conti col ventennio non li abbiamo mai fatti, ne li stiamo facendo in realtà, né sul piano storico né tantomeno sul piano politico. E quindi questo è un aspetto da tenere in considerazione, cioè non è un caso che il 26 di luglio non ci fosse più un fascista in Italia. Allora, è ovvio che tutto questo porta al discorso generale relativo a cos'è stato il regime, cos'è stato il ventennio, cose che ovviamente qui non possiamo fare. È ovvio anche il discorso che se qualcuno è stato ai miei corsi che ho fatto sul fascismo, io dico sempre quella della divisione tra il consenso attivo e il consenso passivo. Che in Italia ci fosse un consenso passivo è un dato di fatto. Che questo consenso non sia mai diventato attivo in un determinato modo, anche questo è un altro dato di fatto. Che il fascismo abbia perso poi il consenso allo scoppio della guerra, quando le cose hanno cominciato subito ad andare male, no? Questo è legato al duplice aspetto che il fascismo non riuscì a trasformare il consenso di larga parte degli italiani da attivo a passivo. E nello stesso tempo voi sapete che in Italia, come le cose vanno male, in qualsiasi campo, in qualsiasi genere, dalla squadra di calcio che perde due partite consecutive e si cerca di cacciare l'allenatore, no? Ad altre cose, no? C'è lo sport prediletto è di prendersela in realtà quando le cose vanno male. Quindi in questo insieme di cose ha fatto sì che il fascismo perdesse il consenso. Però attenti, perché passivo o no, l'Italia negli anni 30 fu fascista. Tutti gli italiani lo furono, salvo ovviamente una frangia di antifascisti, salvo ovviamente un certo settore, non molto ampio tuttavia, di afascismo e via dicendo. No? Allora, quegli stessi che fino al giorno prima erano stati fascisti perché il fascismo gli andava bene così, il giorno dopo non lo sono più. E perché questo è importante ai fini del discorso generale, poi di resistenza, Repubblica sociale e nascita della Repubblica? Per un motivo molto semplice. Tanto prima, si diceva appunto di rivedere tutta una serie di cose, anche la resistenza in una nuova ottica, eccetera, eccetera. Voi sapete che c'è un termine che ha assunto una connotazione nettamente spregiativa, cioè il termine revisionismo. Allora, io vado sempre dicendo che in realtà la storia è revisionismo. E guai se la storia non fosse revisionismo. Nel senso che a mano che passa il tempo, di fronte allo storico, si pongono tutta una serie di nuove acquisizioni. E quindi è evidente che quello che viene scritto 50 anni prima non può essere quello che viene scritto 50 anni dopo. Questo non vuol dire dover sconvolgere in ogni caso. Questo non vuol dire dover fornire la novità a tutti i costi. Cioè, poi chiudo la parentesi e non la riaprirò più. I libri di Pansa, no? Pansa ha scoperto letteralmente l'acqua calda. Questo è il punto. Cioè, un qualsiasi storico degno di questo nome, le cose che dice Pansa le sapeva da 20 anni. Questo è il punto vero della situazione. Poi è evidente che poi l'altro discorso è il modo in cui le cose sono poste. Perché se io ho un certo dato di fatto e lo conosco, va bene. Se io ho un certo dato di fatto e lo propongo come una novità, e soprattutto una novità eclatante, le cose cambiano. Ecco, allora, è evidente che anche nel discorso sulla resistenza, sulla Repubblica Sociale, non può, le acquisizioni non possono essere quelle di 30 anni fa. È evidente che c'è stato un lungo lavorio. Ed è anche abbastanza evidente, è anche abbastanza evidente che l'aspetto politico ha pesato in maniera enorme su tutti questi aspetti. Ma torniamo un attimo al 25 luglio. Perché il 25 luglio, come ho detto, è importante? È importante per il fatto in cui dicevamo prima, ma è importante per il fatto che noi siamo qui a parlare di Repubblica Sociale e di resistenza. Ma la Repubblica Sociale e la Resistenza, entrambi da questo punto di vista, cioè forse l'unica cosa che hanno in comune, no? Nell'Italia del periodo sono fenomeni nettamente minoritari. Cioè la maggior parte degli italiani non è stata né repubblichina né resistente. Questo è un dato di fatto. Ma è quella maggioranza che non ha partecipato né da una parte né dall'altra, che nel secondo dopoguerra ha votato per la Democrazia Cristiana e che quindi ha favorito la nascita della Repubblica in un determinato modo. Cioè quella che De Felice con un termine sicuramente, diciamo per certi aspetti, eccessivo, ma che fotografa bene un certo tipo di situazione, ha definito la palude democristiana. Cioè proprio quella massa lutulenta degli italiani, no? Che a un certo momento è stata alla finestra, si è fatta gli affari suoi, no, ha guardato che cosa succedeva, poi al momento opportuno si è sentita rassicurata dalla Democrazia Cristiana. Per carità, dal punto di vista della storia dei partiti politici, la DC ha fatto benissimo. No? Però anche questo aspetto va tenuto in considerazione. Noi ci stiamo scannando sulla Repubblica Sociale, sulla Resistenza, no, su tutti questi aspetti, senza tener conto che sono fenomeni entrambi minoritari, e non sono io a dirlo. Cioè, nel senso, sono io a dirlo in questo momento, ma questo aspetto del minoritario, no, è stato fatto da, non solo da fior di studiosi, ma anche da fior di personaggi politici. Io so che i dati sono sempre noiosi, no? Però a un certo momento, se facciamo il conto di qualcuno dei dati relativi appunto alla Resistenza o alla Repubblica Sociale, possiamo subito vedere. Dunque, Parri. Ferruccio Parri, grande personaggio della Resistenza, mitico comandante Maurizio del Comitato di Liberazione Nazionale Alt'Italia del Nord, no? Primo presidente del Consiglio dopo la caduta, dopo il 25 aprile, il vento del no, quello che avrebbe dovuto essere il vento del no. Allora, Parri, alla fine del 1947, nel dicembre del 1947, quindi dalla guerra e dal governo Parri erano passati ormai un paio d'anni, dalla fine della guerra, al Congresso Nazionale della Resistenza, quindi in un luogo quanto mai opportuno, disse che la cifra di 280.000 combattenti per la Resistenza era falsa, perché a suo avviso, i combattenti non erano più di 200.000. E sempre lo stesso Parri, a caldo, diciamo così, dopo la liberazione nel maggio del 45, quindi un mese dopo, aveva detto che nel febbraio del 1944 i combattenti erano 4.000. No, scusate, 9.000. 9.000, no? Dopodiché voi sapete c'è sempre i combattenti dell'ultima ora, come ci furono i fascisti della 25ª ora nel 1922, eccetera, eccetera. Quelli che si aggregarono all'ultimo momento, quelli che fiutarono il vento, quelli che rimasero alla finestra, che all'ultimo momento fecero l'aggancio. Ecco, quindi il fenomeno della resistenza è un fenomeno nettamente minoritario all'interno dell'Italia. Un po' più consistente, ma anche qui non siamo sicuramente a grandi cifre. No, come si chiama? l'esercito di Salò, cioè la gente che aderì a Salò, sempre comunque sulla resistenza, giusto per cercare di capirci meglio. 15 anni dopo, cioè nel 1959, la cifra di 200.000 combattenti risultava ancora la stessa, cioè non è che i dati fossero cambiati, anche se era riferita solamente al nord. Poi ci sarebbe tutto da fare la discussione sulla resistenza al sud, però il centro indiscutibilmente ebbe la sua parte di resistenza. Sempre secondo questi dati, nell'estate del 1944 c'erano 80.000 persone in montagna, più le cosiddette formazioni territoriali che stavano in pianura, per un totale di circa 200.000 combattenti. Dopodiché, i rastrellamenti voluti dal feldmaresciallo Kesselring e le conseguenze del proclama Alexander, che nell'inverno del 1944 disse in pratica ai resistenti: lasciate perdere in questo momento, tornate a casa, no? Perché non è il momento di fare controffensive, ridussero sicuramente questo numero. E ancora nel marzo-aprile risultano circa 200.000 i partigiani, che improvvisamente risultano raddoppiati, cioè 500.000, dopo il 25 aprile. E questo riguarda il discorso di prima. La Repubblica Sociale. Secondo la Repubblica Sociale, uno dei primi studiosi di parte fascista, oltretutto, di parte Messina, anzi, Pisanò, nei libri degli anni 60, su cui ritorneremo, perché in pratica poi un certo tipo di contrapposizione tuttora esistente nacque poi dalla pubblicazione dei libri di Pisanò, valuta in 850.000 gli aderenti alla Repubblica Sociale. Uno studioso, anch'esso di parte fascista, Tiglio Tamaro, che scrisse una delle prime storie sulla Repubblica Sociale nell'immediato dopoguerra, basandosi su un documento dell'Oberkommando Wehrmacht, cioè del comando del quartier generale dell'esercito tedesco. Questo rapporto era stato fatto dai tedeschi in un prospetto che era stato fatto per Mussolini, valutò in 780.000 uomini gli aderenti alla Repubblica Sociale, di cui 520.000 militari e 260.000 lavoratori militarizzati. In un altro suo libro, un altro studioso italiano, Ilari, attribuisce a 573.000 i combattenti, di cui 157.000 di leva, 239.000 volontari, comprese le donne. Sapete tutto il problema delle ausiliarie e delle repubbliche. Allora, qui poi ci sono tutta una serie di. De Felice è andato oltre e ha fatto un conto, diciamo così, complessivo di tutti quelli che in un modo o nell'altro stavano o da una parte o dall'altra. E ha calcolato che tra coloro che fornivano supporti, tra coloro che combattevano realmente, tra coloro che fornivano supporti, tutti gli aspetti di questo genere, ha valutato dai 3 milioni e mezzo ai 4 milioni di italiani che bene o male combattevano. Il 10% della popolazione. Esattamente. L'Italia in quel periodo poteva contare su circa 44 milioni di abitanti. Quindi, come vedete, noi siamo qui a discutere della Repubblica Sociale e della Resistenza, che però è un fenomeno minoritario. Certo, è un fenomeno fondamentale perché è dal loro scontro, come ho detto, che nasce la Repubblica. Però la Repubblica, sostanzialmente, la determinarono quegli altri 40 milioni di italiani, no, che non avevano preso parte né dagli uni né dagli altri. E quindi questo è un aspetto, che va tenuto nella debita considerazione. È anche vero poi che c'è tutta la parte del sud, cioè generalmente le cifre vanno valutate globalmente, però voi sapete benissimo che in realtà lo scontro resistenza partigiani è un fenomeno del centro-nord, anzi per tre quarti del nord, poi tutta la prima fase anche nel nord. Quindi è evidente questo aspetto, che la contrapposizione che c'è in questo periodo è tra due fenomeni minoritari. Quindi questo è il primo punto, ma fondamentale da tenere in considerazione. Il secondo punto, che è cruciale, riguarda l'8 settembre, perché il vero spartiacque della storia d'Italia di questo periodo è l'8 settembre. Devo dire sinceramente e tranquillamente che volendo uno potrebbe fare tutto un corso universitario sull'8 settembre. E poi quando arriva alla fine dice, ah, però avrei ancora tante cose da dire, no? Perché anche qui proprio un susseguirsi di fatti, da aspetti inverosimili, se non fosse per la tragicità della situazione addirittura esilarante. Cioè l'Italia firmò l'armistizio, no? Pretendendo che gli americani gli dicessero quando l'armistizio entrava in funzione. Cosa che ovviamente gli americani si guardarono bene dal fare. Dopodiché, quando arrivò la notizia che c'è tutto un problema di difesa di Roma, che non ci fu, tutta una serie di aspetti proprio tecnici di natura militare, no? E il problema è che quando gli italiani seppero che l'armistizio sarebbe entrato in vigore ufficialmente, perché gli italiani, sulla base di tutta una valutazione, avevano creduto che l'armistizio sarebbe stato intorno al 15, quindi la settimana dopo. Quando seppero che era l'8 settembre, la prima cosa che pensarono di fare quale su? Di denunciare l'armistizio. Ah, ma noi non l'abbiamo mai firmato l'armistizio, che è una cosa tipicamente italiana, come tante altre cose, come anche tante altre cose italiane, no? Cioè, a un certo momento, di fronte all'assoluta impreparazione a quello che stava avvenendo, no? Come si chiama? Ah, dunque, noi stiamo tradendo i tedeschi in una certa ottica che vedremo, no? Dopodiché a questo punto però possiamo tradire anche gli americani, perché loro ci hanno tradito, non ci hanno detto quando sarebbe stata la data dell'armistizio, e fecero un intero consiglio dei ministri, no, in cui a un certo momento stettero lì a dire, beh, noi diciamo agli americani che l'armistizio per noi non ne va. E la cosa non avvenne per un motivo molto semplice, che a causa della differenza di fuso orario, no, la radio americana aveva già dato la notizia dell'armistizio. E quindi tedeschi compresi lo sapevano tutti. E a questo punto la faccia fino in fondo non avemmo il coraggio di perderla. Ecco, quindi se voi tenete presente questi aspetti, no? Questi aspetti finiscono per essere decisivi. Un'altra cosa, non crediate, questa è una cosa che liquido brevemente, ma bisognerebbe soffermarsi. Non crediate che in realtà il fascismo cada il 25 luglio. Nel senso che è vero, il 25 luglio il fascismo non c'è più, Mussolini finisce come si chiama, all'Aquila, al Gran Sasso, anzi, da dove il Po era liberato, eccetera, prima Ponza, tutto un certo giro. Però non crediate che il governo Badoglio ripristini la democrazia, perché in realtà il governo Badoglio non è altro che una nuova forma di dire fascismo mascherato, no, perché non ha più gli aspetti del fascismo, ma di regime autoritario che proprio del ripristino della democrazia non gli importa nulla. Cioè, il re aveva appoggiato la soluzione fascista a suo tempo perché voleva far piazza pulita di tutti i partiti politici e di una vecchia democrazia. No, non aveva nessun interesse a quel punto, 20 anni dopo, no, a ripristinare la democrazia. È evidente che poi tutta la situazione sfugge di mano, no, per quello che sta succedendo e per quello che avviene durante la guerra. Ma è abbastanza evidente che il regime, io tenderei quasi a chiamarlo il regime di Badoglio nei 45 giorni, è un regime assolutamente autoritario. Agli operai che scendono in piazza gli fa sparare addosso. Sempre. Quindi non si pensi che i 45 giorni sono fenomeno di democrazia. Possono essere considerati un inizio di democrazia nel senso che i partiti politici a questo punto sì, ritornano sulla scena politica. Però fosse dipeso da Badoglio, fosse dipeso dal re, tutto questo non sarebbe mai accaduto. E soprattutto non avevano nessuna intenzione di fare un governo associando i partiti. Dopo, vabbè, l'8 settembre, il cambiamento di prospettiva. L'8 settembre. Allora, l'8 settembre perché? Dunque, sull'8 settembre sarebbero, ripeto, tante cose da dire. Perché è così traumatico? Dunque, innanzitutto è così traumatico per un fatto di natura squisitamente militare. Cioè, gli italiani, l'esercito italiano, dove tra l'altro c'era un esercito italiano in Italia e un esercito italiano all'estero, perché se non vado errato, io tra l'altro i dati quali ho, ma se cominciamo a parlare sempre di dati poi si finisce per annoiare, mi pare che le divisioni italiane all'estero fossero superiori rispetto alle divisioni italiane che stavano in Italia. Ecco, nell'esercito, nella marina, nell'aviazione, ebbero notizie di nessun genere, non solo di che cosa stava succedendo, ma di che tipo di comportamento attuare una volta firmato l'armistizio. Se qualcuno di voi ha avuto modo di vedere un film di molti anni fa, ma che è ancora molto attuale su questo aspetto, un film di Comencini che si intitola Tutti a casa con Alberto Sordi. Le scene iniziali dove questo qua all'interno della caserma fa marciare i soldati perché qualcosa i soldati bisogna far fare, no? E che a un certo momento cominciano ad arrivare le notizie e tutti telefonano e dicono: beh, ma allora noi cosa diavolo facciamo? No? E dice: qua nessuno sa niente, no? Che porta poi appunto a tutti a casa. Cioè l'armistizio viene visto come la fine della guerra. E quindi, visto come la fine della guerra, Dio per tutti, ognuno per sé. Allora, c'è stato qualche storico che ha scritto che nella storia dell'umanità, a me se il giudizio sulla storia dell'umanità mi sembra eccessivo perché il guardare a certe cose, non si era mai avuto un comportamento come quello dell'esercito italiano durante l'8 settembre. Cioè, non si era mai visto un esercito sfaldarsi senza combattere, no, nel modo in cui si sfaldò l'esercito italiano durante l'8 settembre. Questo porta inevitabilmente a tutta una serie di discorsi che sono stati fatti a livello successivamente, ovviamente, a livello storico, no, da parte di numerosi studiosi, di cui l'ultimo in ordine di tempo è stato Galli della Loggia, sulla cosiddetta morte della patria. Cioè, dopo l'8 settembre la patria non esisteva più. Ognuno ha pensato agli affari suoi, via andare. Tutto questo, Galli della Loggia potrei anche fare la citazione, lo sintetizza in questo modo: nella radicalizzazione della crisi della nazione, nella morte della patria confluiscono due ordini di fenomeni. Da un lato la crisi, scomparsa dello Stato, in conseguenza delle particolari modalità politico-militari della sconfitta bellica. Dall'altro lato, e proprio per effetto di tali modalità, la sensazione diffusa in moltissimi abitanti della penisola che la sconfitta in realtà è stata causa e insieme prodotto e manifestazione di qualcosa di molto grave e profondo, di una paurosa debolezza etico-politica degli italiani. Allora, se questo è vero, ripeto qua le interpretazioni su questa storia della morte della patria, in realtà ci sono studiosi che sostengono che è così, sono studiosi che sostengono che non è così. Il primo in realtà a porre il problema era stato De Felice, quale nell'intervista che aveva rilasciato, ma anche nell'ultimo volume della sua purtroppo incompleta biografia di Mussolini, scrisse che l'8 settembre era la morte della patria e con esso della nazione come vincolo di appartenenza e una realtà etico-politico consapevole della propria ragione storica. E poi disse che l'8 settembre, e questa è una frase invece che colpisce in modo particolare, secondo De Felice l'8 settembre era stato inconsciamente uno sciopero morale da parte degli italiani. Cioè, una volta saputo che la guerra, noi avevamo cambiato campo, la guerra era così, basta, basta con tutto. E quindi un autentico sciopero degli italiani che finirono per rifiutarsi di prendere posizione, tant'è vero che De Felice aggiunge anche una frase ancora più massiccia, diciamo così, scrive: il popolo si ritira dalla lotta per lasciarsi morire. Sempre De Felice sostiene, con un linguaggio in questo caso direi piuttosto popolare, che quello che prevale dopo l'8 settembre è l'abbasso tutti, lo svuotamento del senso nazionale e il carattere stesso di un intero popolo viene messo in discussione. De Felice ricorda un episodio che viene narrato in un altro libro di un autore che si chiama Satta, il quale dice che in questo periodo, andando in giro per le strade di Roma, trovava appunto queste scritte "abbasso tutti", e Satta è quello autore della famosa espressione da cui poi è nato tutto il discorso di morte alla patria, cioè la morte della patria è certamente l'avvenimento più grandioso che possa occorrere nella vita di un individuo. Quindi c'è questa interpretazione della morte della patria attraverso l'8 settembre, però c'è in realtà un tipo di interpretazione che è diversa, che è quella che invece è vero, la tragedia dell'8 settembre tutti sono concordi, Però qualcuno ha scritto che il sentimento nazionale non fu travolto dal trauma dell'8 settembre né cancellato come ideale punto di riferimento. E c'è una contrapposizione a questo punto tra l'Italia che muore l'8 settembre e però l'Italia, quella nuova, che nasce il 9 settembre, perché i primi episodi di resistenza nascono all'indomani dell'8 settembre. Perché il CLN si muove già all'indomani dell'8 settembre, e quindi è forse non la morte generale della patria, ma forse di un certo tipo di patria, sostituito da una nuova patria, che è quella appunto degli ideali della resistenza. Dopodiché è chiaro che non è in questo momento la sede per discutere le interpretazioni, dato il tempo, non peraltro le interpretazioni storiografiche, quindi ognuno di voi su queste che possono essere considerati due filoni di interpretazione del periodo può muoversi. Però l'8 settembre fu ancora più traumatico, cioè ripeto, questo problema della morte della patria è nel suo genere già un problema traumatico, ma fu in realtà doppiamente traumatico per il cosiddetto problema del tradimento. Perché tutta la storia della Resistenza e della Repubblica Sociale ruota in realtà intorno al problema del tradimento effettuato dagli italiani l'8 settembre. Allora uno dice: tradimento di che cosa? Tradimento dell'alleanza con i tedeschi. Cioè noi l'8 settembre, no, nel bel mezzo della guerra, non proprio nel bel mezzo, un po' più in là, ma a situazione sicuramente non ancora definita, facciamo il cambio di campo. Siamo entrati in guerra con i tedeschi e a un certo momento ci spostiamo dalla parte degli americani. Ricordo che gli americani in realtà non ci concessero, gli alleati più che gli americani, non ci concessero nulla. Noi non fummo in realtà mai, scusate il gioco di parole, alleati degli alleati, perché venimmo considerati co-belligeranti. L'armistizio che venne stipulato, quello militare dell'8 settembre, conteneva determinate clausole, ma quello, il cosiddetto armistizio lungo, cioè quello politico, conteneva delle clausole durissime nei confronti dell'Italia, che poi clausole che saranno applicate durante la conferenza di pace del 1946, 46-47, che, come si chiama, nei confronti dell'Italia venne applicata rigidamente la norma stabilita alla conferenza di Casablanca della resa senza condizioni. No, ma noi combattiamo con voi. No, voi vi arrendete. No, e dopo se siamo bravi vi facciamo co-belligeranti. Ma da noi non potete pretendere di essere nostri alleati. Quindi è evidente che tutto l'insieme è in corso. Però quello che nell'immaginario popolare, diciamo così, per usare una frase dei giorni nostri, prevale, no, è il cosiddetto aspetto del tradimento. Cioè noi eravamo entrati in guerra, dunque voi sapete che sull'Italia il peso del tradimento gravava fin dalla Prima Guerra Mondiale. Nel senso che noi anche durante la Prima Guerra Mondiale eravamo alleati dei tedeschi nella Triplice Alleanza, no, e prima di entrare in guerra, la Triplice Alleanza ci concedeva una scappatoia per cui non eravamo entrati in guerra, prima di entrare in guerra a un certo momento cambiamo campo, no? Per cui l'Italia era diventata quella dei giri di valzer, come disse Bulow a suo tempo. Mussolini a un certo momento, per tagliare la testa al toro, disse che l'epoca dei giri di valzer, se mai era esistita, era finita definitivamente, e questo proprio nell'imminenza dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Quindi l'Italia fascista aveva rispettato le alleanze. No, l'Italia non più fascista, se vogliamo metterla in questi termini, subito aveva cambiato di campo. E quest'idea del cambiamento di campo determinò consciamente o inconsciamente, a seconda del caso, negli italiani, il problema del tradimento. Perché è importante questo problema del tradimento? Perché questo problema del tradimento, poi lo vedremo, vorrei soffermarmi un attimo invece sulla questione del tradimento e dell'interpretazione storica, no? Perché questo problema del tradimento è determinante? Perché il problema del tradimento è strettamente legato ad un altro problema che si pone dopo l'8 settembre, e che è determinante su tutta la storia della resistenza della Repubblica Sociale, cioè il problema della scelta. Allora, fermo restando che abbiamo visto che tre quarti degli italiani, forse di più, non scelsero, no? Il problema della scelta è perché qualcuno scelse la Repubblica Sociale e perché qualcuno scelse invece la Resistenza. Questo è il punto vero della situazione. Ed è strettamente legato con il problema dell'8 settembre. Questo problema del tradimento in realtà non esiste, non è mai esistito. Cioè, hanno dovuto dircelo a noi italiani, gli storici tedeschi, che a tradire fu la Germania. E non noi. Nel senso che se lo mettiamo da un punto di vista puramente fattuale, no? Noi tradiamo i tedeschi perché a un certo momento, con l'8 settembre, cambiamo campo. E quindi è chiaro che poi tutta la propaganda hitleriana si sviluppa in questa direzione. Ma non ci avevano tradito prima i tedeschi? Non ci avevano tradito al momento del patto d'acciaio, che doveva essere in cui si diceva che la guerra non sarebbe cominciata se non prima di 5 anni, no? E il giorno dopo Hitler mobilitò l'esercito per invadere la Polonia. E lì, per la stupidata dei nostri governanti, no? Il patto d'acciaio non era come la triplice, dove che era un'alleanza difensiva per cui per determinate clausole l'Italia poteva star fuori dalla guerra. Cioè, l'Italia tenterà di star fuori dalla guerra, ma solamente perché era militarmente impreparata. Questo è un altro discorso. Perché il patto d'acciaio promuoveva un meccanismo automatico in cui, nel momento in cui una delle due nazioni avesse dichiarato guerra a un'altra, non importa se ha torto o ha ragione, l'altra entrava in sua difesa. O perlomeno in sua difesa, entrava a fianco dalla guerra. E poi c'è un libro di un famoso giornalista storico, Erich Kübi, no, che si intitola proprio Il tradimento tedesco, dove formula cinque casi in cui anche durante la guerra i tedeschi tradirono gli italiani. E quindi dice, la conclusione di Kübi è più o meno, questi qua si sono fatti il concetto di aver tradito i tedeschi, ma non hanno capito che era l'esatto contrario. Dopodiché tutta una certa storiografia tedesca, di cui anche studiosi di grande valore, si sono poi soffermati su questo aspetto del tradimento in questa ottica. Mentre invece è vero che stiamo parlando di momento storico, non poi di interpretazione storica. È vero invece che questo problema del tradimento in realtà finì per condizionare le coscienze di certi italiani. Cioè, vi fu gente che fu antifascista per tutto il ventennio e che poi andò a iscriversi alla Repubblica Sociale, a entrare nelle file della Repubblica Sociale, perché non poteva sopportare il peso del tradimento. Ecco, questo è un aspetto, è ovvio che questo è un aspetto che va tenuto nella debita considerazione. A fianco al problema delle scelte, che è altrettanto fondamentale, e che introduce poi nuovamente un altro aspetto che è altrettanto fondamentale, che è quello della guerra civile. Termine che fino all'inizio degli anni 90 era impossibile usare. Non c'è mai stata una guerra civile in Italia, mai. Peccato che quelli che la combattevano dicevano che era. Ma non solo quelli da parte fascista, soprattutto quelli da parte della resistenza. Quindi, come vedete, le carte poi si mescolano e si imbrogliano da sole. Il problema delle scelte. Perché il problema delle scelte è fondamentale ed è strettamente legato con il problema della guerra civile? Allora, qui facciamo un salto in avanti, poi vedremo perché l'uso del termine guerra civile non ci fu e quali implicazioni questo termine ebbe per motivi sostanzialmente politici, che però, ripeto, è strettamente legato a questo problema delle scelte. Perché il termine guerra civile viene largamente rifiutato? Perché in realtà si parla di guerra civile mentre si combatte, poi vedremo alcune citazioni proprio relative all'uso di questo termine. L'uso del termine, ma possiamo anche vederle subito così ci capiamo meglio. Allora, chi forse in assoluto per primo usò il termine guerra civile fu l'Unità. E a caldo, anzi direi a caldissimo, no? Perché l'Unità clandestina del 5 ottobre del 1943. Parliamo di una ventina di giorni dopo la nascita della Repubblica Sociale, in cui, parlando della situazione, diceva che si stava combattendo una guerra contro l'aggressione nazista, una guerra civile contro i fascisti suoi alleati e una lotta politica contro le forze reazionarie. Allora, se voi pensate che il libro che poi ha cambiato, per così dire, la faccia della storiografia su questo periodo, cioè quello di Claudio Pavone, che uscì negli anni, perlomeno, dello storico di sinistra, perché questo ha detto, che ha cambiato l'aspetto, no, si intitola Guerra, Guerra Civile, Guerra di Liberazione, no? Questo era il primo intervento che Pavone fece, in un convegno dove lanciò guerra, guerra civile, guerra di liberazione. E come si chiama? Il volume poi di Pavone parla esplicitamente di guerra civile con il sottotitolo Saggio sulla moralità della resistenza. Dove qui, e lui fa questa distinzione dicendo che il contrasto tra repubblichini e partigiani è al contempo guerra civile, guerra di liberazione, guerra di classe. E non è la stessa cosa che dice l'Unità del 43 quando dice guerra contro l'aggressore nazista, quindi guerra di liberazione, guerra civile contro i fascisti suoi alleati, e quindi lo stesso termine, lotta politica contro le forze reazionarie, lotta di classe. Quello che dice, quello che dirà poi Pavone. Quindi questi aspetti della resistenza erano presenti fin dalle origini. Dopodiché molti si espressero sull'uso del termine guerra civile. Sereni al congresso del Comitato di Liberazione Nazionale, Sereni era un esponente di primo piano del Partito Comunista, al congresso del Comitato di Liberazione Nazionale dell'agosto del 45 disse che si erano combattuti 2 anni di guerra civile. Alessandro Galante Garrone, esponente di primo piano del Partito d'Azione nel 47, disse che si era combattuta una sanguinosa guerra civile. Leo Valiani, credo che tutti conosciate Valiani, è stato oltre che un valente storico, un valente giornalista, è stato un valente combattente della resistenza, scrisse: l'inferocimento degli animi è il pericolo più recondito e insieme più profondo che ogni guerra civile. Parentesi. E nella lotta contro i fascisti si trattava ben di questo, porta con sé. Francesco Scotti, che fu deputato resistente, deputato comunista, scrisse che si trattava anche di una guerra civile. Quindi direi che da parte anche di esponenti della sinistra l'uso del termine guerra civile non era mai mancato e nemmeno a caso. Poi il termine guerra civile fu usato per primo a livello storiografico da uno storico inglese, cioè Deakin, nel suo libro sulla brutale amicizia, che è una ricostruzione dei rapporti tra tedeschi e Repubblica Sociale, che in italiano, la prima volta che venne tradotto in italiano, venne tradotto appunto con Storia della Repubblica Sociale. No? E lui tranquillamente usa per tutto il libro il termine guerra civile, però Deakin è un inglese, quindi con categorie di giudizio diverse da quelle degli italiani. Giorgio Bocca, che era stato resistente e combattente partigiano, nel libro della Repubblica di Mussolini, usa il termine guerra civile. Però questo uso del termine guerra civile è tabù fino agli anni 90. Perché è tabù? Perché dopo aver parlato di guerra civile immediatamente durante la guerra stessa, immediatamente negli anni successivi, 46-47, questo termine scompare? Scompare sostanzialmente per motivazioni di natura politica. Cioè, l'Italia del 47 comincia a non essere più l'Italia nata dalla Resistenza. Cioè, il clima che si sta instaurando in Italia, certo c'è tutta una serie di aspetti che noi qui non possiamo considerare, ma che la guerra fredda, il cambiamento del mondo, l'inizio di nuovi tipi di politica, porta a un cambiamento anche in Italia. Allora, l'Italia nasce dalla Resistenza e i principi della Resistenza vengono sanciti attraverso la Costituzione, ma poi basta, tutto finisce. E quindi è evidente che uno degli aspetti, quando si usa il termine guerra civile, uno degli aspetti che generalmente si tende a mettere a confronto è dato dal fatto che se c'è una guerra civile, è una guerra che si combatte all'interno di una determinata nazione, di un determinato gruppo, di qualcosa. No. Più famosa la guerra civile è la guerra civile americana, quella che da nordisti e sudisti, no? Dove però entrambe le parti sono portatori sono portatrici di certi valori, di certi valori che si scontrano tra di loro, ma attenti, che sono ugualmente validi. Questo è il punto vero della questione. Quindi, se diciamo che è guerra civile, diciamo a un certo momento che sia i valori della Resistenza, sia quelli della Repubblica Sociale, vanno posti sullo stesso piano. Ed è l'operazione che oggi si sta cercando di fare, parlando fuori dai denti, che è un'operazione di stampo meramente e puramente politico. Questo è fuori di dubbio. Data la difficile situazione, poi, la Resistenza, come sapete, ha sostanzialmente una matrice di sinistra. Per carità, io non sottovaluto l'apporto dei cattolici alla Resistenza, né sottovaluto l'apporto dei militari alla Resistenza, come invece per troppi anni è stato fatto, no? Però, oggettivamente, la matrice è quella di sinistra, non solo quella dei socialisti e dei comunisti, ma lo stesso Partito d'Azione è collocato in una certa ottica, no? Quindi, tenendo conto di questi aspetti, e tenendo conto che gran parte di questi aspetti furono messi in soffitta, no, a partire dal 1947 in poi, io a suo tempo avevo fatto fare una tesi che, ahimè, non è mai arrivata a compimento, non per colpa mia, ma per colpa del candidato che era uno che lavorava all'INPS e quindi lo spostavano a destra e a sinistra, così aveva cominciato questo lavoro e poi dopo non l'ha più finito, non so nemmeno dove sia oggi, no? Si era messo in testa di fare questa tesi sulla valutazione del 25 aprile nella stampa, a partire dal 45, come veniva celebrato il 25 aprile, a partire dal 45 e arrivato, mi pare che si fosse posto come termine, se non vado errato, l'inizio del centro-sinistra, cioè l'inizio degli anni 60. E io mi ricordo di aver visto i primi anni, cioè già nel 46, nel 47, la celebrazione del 25 aprile venne fatta in tono minore. E non dico che fosse mal vista, ma eravamo lì vicini. Quindi allora entriamo negli anni 50, entriamo in un periodo difficile per la sinistra, per tutta una serie di aspetti. Quindi è evidente che il termine guerra civile, che può essere interpretato in un determinato modo, viene messo in soffitta. E infatti non è un caso che lo ritira fuori Pisanò all'inizio degli anni 60, quando dice si tratta di guerra civile, perché così i repubblichini li mettiamo sullo stesso piano dei resistenti. Dopodiché, Pavone ha compiuto invece un tipo di operazione storiografica, mettendo in rilievo tutta una serie di aspetti per cui la lotta partigiana può essere qualificata in un determinato modo, anche come guerra civile. Posso dire per esperienza personale che gli ex combattenti, no, questo concetto di guerra civile non entra in testa e non entrerà mai. Io mi ricordo che anche qui parlo ormai di una quindicina d'anni fa, quando proprio mi pare uno dei primissimi 25 aprile in cui era uscito il libro di Pavone, aveva, come si chiama, dato adito a tutti questi problemi appunto di interpretazione. Mi ricordo di aver partecipato la sera del 25 aprile ad una trasmissione di una televisione privata milanese proprio sul problema del 25 aprile, dove insieme a me c'era uno storico delle istituzioni e c'erano un paio di partigiani di grande nome, mettiamolo in questi termini, no? E io mi ricordo che quando parlai del concetto di guerra civile, se non mi sbranarono in diretta, ci mancò poco, insomma, no? Proprio questo concetto di guerra civile non entra. Posso anche dire che in questa università, tra i colleghi di storia contemporanea, c'è chi ancora oggi dice che non fu guerra civile. Cioè qualcuno dice che in realtà non può essere guerra civile perché in Italia in quel periodo c'erano due eserciti che si combattevano, che erano quello tedesco e quello americano, e degli italiani che combattevano con gli uni e con gli altri. E quindi è evidente che non può essere guerra civile. Un simpaticissimo ex assessore di un comune dell'Interland milanese, con cui ho collaborato per anni, che era di Rifondazione Comunista, quindi al di sopra di ogni sospetto come collocazione politica, diceva sempre, ma era un grande sostenitore invece della tesi della guerra civile, e diceva sempre, ma scusate, ma i repubblichini avevano il passaporto svizzero. Allora, se si combatte gli uni contro gli altri, è evidente, no, che non può non essere guerra civile. Così come non può non essere, però, come dice giustamente Pavone, guerra di liberazione, perché è di liberazione dall'esercito tedesco a questo punto. Così come l'aspetto della lotta di classe era ben presente. Non so se qualcuno di voi ha avuto modo di leggere le inaccettabili interviste che ha fatto l'attuale ministro della Difesa sul Corriere domenica e su Repubblica ieri, no? dove lui pone tutta una serie di aspetti sul fatto della resistenza. La resistenza, in realtà, i rossi volevano portare il comunismo in Italia. Allora, detto in questa ottica, non è sbagliato, perché l'idea della lotta di classe è ben presente all'interno del mondo partigiano. Però c'è tutto il contorno che qualcuno si dimentica. Questo è il punto vero. E il problema del porre gli uni e gli altri sullo stesso piano ritorna invece, non ho perso il filo, sono partito da lontano, io sono partito dalle scelte dall'8 settembre, ritorna invece al problema dell'8 settembre. Perché non possono essere messi sullo stesso piano? Per un motivo molto semplice, che l'adesione alla Repubblica Sociale o alla Resistenza fu dovuto ovviamente ai singoli. Io ho detto che il problema del tradimento fece sì che alcuni che erano stati per 20 anni antifascisti divennero repubblichini. Però si poneva un problema di scelte. E scelte difficili per certi aspetti. Perché difficili? Perché in realtà chi scelse furono soprattutto i giovani. Cioè, che all'interno della popolazione italiana una parte di ex fascisti continuasse a sussistere era un dato di fatto, no? Però il problema vero era dei giovani. Che scelta avrebbero fatto i giovani? Allora, le condizioni erano oggettivamente difficili perché i giovani erano cresciuti nell'ambito del fascismo. E quindi tale era. Io mi ricordo di aver avuto modo di parlare a lungo di questa problematica con un ex pilota di Salò. E poi l'aviazione di Salò non volò mai, ma questa è un'altra storia, no? Era un simpaticissimo, simpaticissimo signore con cui giocavo a carte d'estate in spiaggia, no? E così, parlando del più e del meno, e lui mi disse che l'8 settembre, mi pare che avesse 20 anni o qualcosa del genere, era allievo ufficiale pilota all'Accademia di Pozzuoli, quando appunto venne fuori la notizia dell'8 settembre. Dove, ripeto, il governo Badoglio non diede disposizioni a nessuno e quindi nessuno sapeva cosa fare. A un certo momento, tutti questi accademici di Pozzuoli, no, presero e vennero al nord e aderirono alla Repubblica Sociale. Allora, la mia domanda spontanea fu: scusami, perché tu hai aderito alla Repubblica Sociale? E la risposta fu: perché i miei comandanti avevano aderito alla Repubblica Sociale e noi, che avevamo 20 anni, cosa potevamo fare se non quello? È una risposta sensata ed è anche per certi aspetti una risposta di comodo. Chi sono io per poter giudicare? Per carità, non mi permetto. Però il problema è che ci fu chi fece l'altra scelta. Cioè, allora, il problema vero, che poi si riflette su tutto il discorso della guerra civile e su tutto il discorso più generale del tipo di interpretazione, è che la lotta tra Resistenza e Repubblica Sociale va tutta fatta risalire alle scelte fatte dopo l'8 settembre. Scegliere era difficile, su questo sono perfettamente d'accordo. Però a un certo momento ci fu chi fece la scelta giusta, cioè di aderire alla Resistenza, e chi fece la scelta sbagliata di aderire a Salò. Perché fece la scelta sbagliata? Perché in realtà il problema era che la Repubblica Sociale non era che la ripetizione del vecchio fascismo e quindi la ripetizione di certi principi che ormai la storia aveva condannato. Cioè non scelsero la libertà, scelsero di continuare la tirannia, scelsero di continuare a fare tutto quello che era successo prima, mentre gli altri scelsero la democrazia. Uno studioso che non ha mai amato il termine di guerra civile, che si è sempre opposto, no, all'utilizzo del termine guerra civile, si è però inventato, se devo essere sincero, una bella definizione, perché lui sostiene che non fu guerra civile, fu guerra di civiltà. Allora, è un concetto sicuramente diverso, ma è vero. Cioè, era la civiltà contro i principi della tirannia. Allora, è evidente che non possono essere messe sullo stesso piano la Repubblica Sociale e la Resistenza. Allora, noi dobbiamo avere la massima comprensione per chi fece la scelta di Salò. Cioè, nel senso che oggettivamente e ripensandoci, uno ha scelto Salò, va bene, rispettiamo la sua scelta. Non gli dobbiamo dire doveva scegliere per forza gli altri. Però quello che possiamo dire è che ha fatto la scelta sbagliata. No, ha fatto la scelta sbagliata, è diverso. Ha perso perché ha perso per tutta una serie di motivi. No? Ha fatto la scelta sbagliata perché è ritornato su certi principi, no? Su certe scelte che erano ormai condannate dalla storia. Questo è il punto vero. Infatti lo so che c'è una certa tendenza a dire perché ha perso. Cioè quando Mazzantini dice andavamo a cercare la bella morte, cosa diavolo vuol dire? Scusatemi, non... Cioè l'eroismo, il combattere per certi principi, eccetera, va bene, ma i principi erano sbagliati. Questo è il punto. Allora, che voi abbiate fatto quella scelta perché siete vissuti in 20 anni di fascismo e alla fine, no, vi erano stati inculcati determinati principi, questo va benissimo. No? Però, signori, dovete avere il coraggio di dire abbiamo fatto la scelta sbagliata. Potete essere giustificati dicendo eravate giovani, eccetera, eccetera, però non potete dire dobbiamo essere equiparati agli altri. Perché gli altri fecero una scelta di libertà. Questo è il punto. Diverso poi diventa, e su questo chiuderei, che forse è meglio dare spazio alle domande in modo da chiarire certi aspetti, no? Diverso è poi il discorso dei morti. Nel senso che ci sono i morti da parte della Resistenza, ci sono i morti da parte della Repubblica Sociale. Anche questo, il fatto dell'essere e dell'aver combattuto e dell'aver combattuto per una causa, fa finire in secondo piano il problema della causa. Cioè, i morti sono morti e vanno rispettati, su questo non c'è il minimo dubbio. No? Però a un certo momento qualcuno morì per la causa giusta e qualcuno morì per la causa sbagliata, e questo va detto. Cioè, rispetto dei morti e soprattutto. Io mi ricordo che sempre negli anni in questione, cioè i primi anni in cui uscì il libro di Pavone, che venne fuori questo problema relativo alla guerra civile, no? Il professor Giorgio Rumi, che qualcuno di voi credo abbia conosciuto, che è stato un grandissimo storico, venne incaricato al Corriere della Sera di scrivere un articolo su questa questione. Lui lo scrisse, no? E prima di darlo al Corriere me lo fece leggere. Rumi non era proprio uno storico tipico della Repubblica Sociale, diciamo così, no? E io mi ricordo che lui diceva chiaramente che i morti vanno rispettati tutti, però ci fu chi morì per una causa e ci fu chi morì per un'altra. Allora, vorrei invece concludere con una citazione che forse servirebbe per meglio chiarire quello che sto dicendo. Allora, io non so quanti qua siano religiosi o meno, quanti vadano in chiesa o meno, no, né, francamente e sinceramente, devo dire, mi interessa. No? Però è abbastanza curioso quello che sto per leggere, perché questo è un intervento che è stato fatto da un sacerdote, che si chiama Gianfranco Bottoni, ed è uno dei, non so se ci sia ancora, c'era nel 2007 quando è stato fatto quando il discorso è stato fatto, è uno dei sacerdoti che stanno al Cimitero Maggiore a Milano. No? E il discorso è stato fatto il 1 novembre appunto del 2007 in occasione in realtà della festa dei defunti, che come sapete è il 2 di novembre. E viene fatto, dunque, il discorso venne fatto nel cosiddetto campo della gloria, cioè dove, come il campo 10, mi pare, sì, no? Dove appunto sono seppelliti i combattenti della Resistenza. Bottoni fa tutto un certo tipo di discorso iniziale. Parla appunto del credere e non credere, e dice: il cristiano dovrebbe essere solo testimone di una speranza universale, ovvero è chiamato a sperare per tutti. Nel contesto di queste due date significative della tradizione cristiana, a convocarci qui oggi non è però un motivo religioso, bensì la memoria dei caduti che ricordiamo in questo campo della gloria. Qui siamo convocati da una memoria laica e civile. Qui non ricordiamo i martiri di una fede religiosa, ne compiamo un atto di culto per tutti i defunti. In questo luogo invece proclamiamo la gloria di chi ha rischiato e perduto la vita combattendo per valori di giustizia e libertà, di eguaglianza e democrazia. Questi valori sono infatti i principi sui quali si fonda il patto costituzionale che ha dato vita alla nostra Repubblica, nata dalla resistenza partigiana e consacrata dal sangue dei caduti della guerra di liberazione nazionale. Sono qui pertanto per dare espressione civile e laica all'esigenza, che è di ogni società, di rifarsi ai propri fondamenti. Un'esigenza indispensabile per non perdere di vista l'unità nazionale e la coscienza democratica. Indispensabile per rinsaldare il proprio cammino nella storia, alla ricerca della pace e del bene comune, in questa casa di tutti che è e deve essere la polis, la città dell'uomo con le sue istituzioni temporali. Allora non possiamo e non dobbiamo confondere la pietas cristiana con la pietas civile. Le due diverse prospettive di pietas si devono tenere distinte, senza contrapporle come alternative, secondo la stessa visione cristiana che distingue l'ambito spirituale da quello temporale. Dapprima quella cristiana, se ispirata dall'Evangelo, anticipa la luce dell'ultimo e nuovo giorno e in tale luce apre i cuori a non fare distinzioni tra defunti, ma a sperare e pregare per tutti indistintamente. Non altrettanto farà la pietas civile. Per la società civile è doveroso non mettere tutti i morti sullo stesso piano. Non tutti, infatti, nella loro vita e con la loro morte, hanno voluto che la polis terrena fosse la casa di tutti. Ecco, poi sarebbe da dire, come si chiama? Sarebbe da dire altri aspetti, vorrei solo soffermarmi un attimo su questo, che dice che gli uni e gli altri, cioè che i resistenti e i repubblichini, siano sepolti e onorati in questo campo della gloria, non è conseguenza delle ragioni di forza di cui disponevano i vincitori sui vinti. È invece la civica pietas ad esigerlo, perché la città libera e democratica ha tra i suoi padri soltanto coloro che hanno scelto di combattere per liberarla e restituirla alla sovranità nazionale. Né qui, né in un altro luogo della nostra città, medaglia d'oro della resistenza, il pur apprezzabile desiderio di promuovere la riconciliazione nazionale dovrà portarci a mettere. Scusate, ma la mia allergia comincia a farsi sentire. Allora, dicevo, il pur apprezzabile desiderio di promuovere la riconciliazione nazionale dovrà portarci a mettere tutti i morti sullo stesso piano, cadendo in una sorta di relativismo della memoria. Ecco, io direi che forse qualcuno considererà il prete in questione un comunista, può anche darsi. Ormai queste, come si chiama, del clero non è così. Aspetti, volevo dire ancora, volevo solo finire una cosa. Vorrei anche ricordare a tutti coloro che molto spesso, no, parlano di questi aspetti e molto spesso gli eredi di quella che è stata il Partito Fascista Repubblicano. Cioè, non bisogna dimenticare che il movimento sociale, che per sempre è stato definito partito neofascista, è neofascista in un senso particolare, nel senso che si richiama pochissimo al fascismo del ventennio, ma tutto alla Repubblica Sociale. Lo disse Almirante, me lo ricordo anch'io in televisione, quando diceva noi siamo gli eredi della Repubblica Sociale. Ecco, allora bisogna ricordare poi a tutti coloro che combatterono e che oggi sono ritornati nuovamente politicamente in una certa cosa. Per carità, la democrazia è bella, proprio anche per questi aspetti. E si ricordino proprio di questo. Cioè, nel senso che se loro sono in Parlamento oggi, no? E se per 30 anni hanno parlato, lo devono al fatto che ha vinto la resistenza. Perché se vinceva la loro parte, loro probabilmente sarebbero stati intrappati, no? Ma sicuramente altri avrebbero scelto per loro. Ecco, questo va, detto fuori dai denti, va tenuto in considerazione. Grazie dell'attenzione.